Radio 24. Libera la voglia di fare. Ecco, lui si stava aspettando. Preciso, arriva, tac. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Vincere uno slam dopo quasi 5 anni. Emozionato Federer, lacrime agli occhi, quasi a 36 anni vince il 18° slam. Che dire di più? Che cosa si può dire di un fenomeno del genere? Si può dire che è un fenomeno che ci ha emozionato in questa domenica che è partita da Melbourne, l'avete sentita come, poi è proseguita con una giornata non banale, la 22esima per il campionato di Serie A, che forse ha chiuso definitivamente anche il discorso scudetto, ma ne parliamo tra un attimo. Però noi abbiamo ancora i brividi appiccicati sulla pelle per quello che abbiamo visto fare questa mattina a Federer contro Nadal, e ne parliamo a lungo oggi. Io la butto lì a Carlo Genta, anche a Paolo De Paola, che saluto, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore. Ciao, direttore. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Voi mi dovete dire chi è il vostro sportivo più grande di tutti i tempi, e non solo per il tennis, perché Federer oggi con questa vittoria a 35 anni ha evocato gli spiriti dei grandi dello sport. Sì, siamo saliti sulla macchina del tempo che è stata evocata in molti film. Io penso sia l'ultima, è la 18esima e ultima volta di Roger Federer, perché la macchina del tempo prima o poi finisce la benzina. E questo Open d'Australia ci ha riportati indietro, con una finale tra le sorelle Williams, con Federer contro Nadal. Sì, il Festival dei Trentenni. Festival dei Trentenni. Più grande sportivo di tutti i tempi, ma Giovanni, ma non lo so, dai, lanciamo dagli amici Michael, a casa. Michael Jordan 800 24 00 24, vi aspettiamo fino alle 19, chiamate e insomma vi facciamo intervenire, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Abbiamo detto domenica non banale anche per il calcio. Vince la Juve, perde la Roma, perde il Milan, ieri ha perso la Lazio, ha vinto l'Inter, io non lo so. Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport, chiudiamo qui per lo scudetto? No, ancora no, perché chiaramente l'avevamo già detto, l'ha detto pure Allegri, bisogna aspettare un po' più avanti. Io credo dopo il prossimo turno di Champions, verso fine marzo si saprà realmente, diciamo, quali saranno i distacchi. In questo momento la Juventus si è riappropriata di una propria leadership sicura, perché anche sul piano del gioco ha trovato, come dire, una spettacolarizzazione, una fluidità che non aveva più con questo nuovo modulo. Adesso sì, bisognerà vedere. Sembrava un pochino... uno scherzo, invece Allegri ha detto: ma se funziona, proviamo a continuare con lo scherzo, con lo sberleffo, esatto, che continua a pensare abbia tirato ai contestatori domenica solo scorsa. Solo che poi gli creerà qualche problema, perché magari anche questa piccola insoddisfazione, insofferenza, vediamo se è rimasta legata soltanto all'uscita del campo oppure se ci saranno altre ripercussioni di Dybala quando è uscito, perché magari in quel momento Dybala pensava che il cambio fosse per Cuadrado, invece lui l'allenatore ha voluto tenere le due fasce così coperte come erano, e ha preferito appunto sostituire Dybala. In questo io dico, sono dalla parte dell'allenatore, hai tutta la qualità in campo, se qualche volta l'alterni non è la fine del mondo. No, sì, ma anche perché Dybala non può pensare di essere insostituibile anche nei finali di una partita già vinta. Dybala è la superstar di questa Juventus. Sì, ma non è Messi che non esce mai. No, non è Messi che non esce mai, però aspira a diventarlo. Io invece, al contrario del direttore, credo che il campionato sia abbondantemente finito, e come diceva la mamma, questa domenica è stata come il brodino che ha rimesso le cose a posto, che ha rimesso lo stomaco a posto. La Roma perde a Genova con la Sampdoria, una partita che non puoi perdere, non puoi, in questo campionato non puoi permetterti di perdere. L'Inter continua a vincere, il Napoli batterà il Palermo e la Juventus tenendosi in tasca la partita di recupero con il Crotone, che pure oggi ha vinto. Anche qui credo sia tutto chiuso, perché 8 punti di distacco quando ne hai 13, ne hai totalizzati 13 in 22 giornate, sono una montagna praticamente insormontabile. Dunque credo che questo campionato abbia ben poco da dire. Direttore, ma tu ti aspetti che domenica sera Juve-Inter, che a questo punto è l'appuntamento che attendono tutti, Allegri si presenti ancora con questa Juve qui, quindi il tridente pesante, Quadrado, Pjanic? Sì, io credo di sì. Credo che possa ancora riproporlo, ma soprattutto per tenere alta, diciamo, la zona di gioco della Juventus. In una partita contro l'Inter chiaramente non è che devono mancare motivazioni, ci saranno. E sicuramente questo tipo di schema, questo tipo di schieramento gli permette appunto di tenere la squadra alta. L'importante è, quando a me fanno sempre un po' ridere, le squadre, ma anche quelle un po' più consolidate, passano alla gestione del gioco. La gestione del gioco è un'invenzione anche un po' giornalistica, per dire un controllo che nel calcio non esiste mai, perché se rischi troppo nel dialogare sulla linea di centrocampo, appena dietro la linea del centrocampo, qualche spizzata, qualche errore può esserci sempre, e appunto qualche sorpresa può essere dietro l'angolo. Solo sul 3-0 una partita può essere in qualche modo messa al sicuro. E non sempre, come racconta la storia del calcio. Chiedere a chi è stato a Istanbul a fare la finale di Champions. E non sempre, quella diciamo è stata un'eccezione assoluta. Sì, sì. Però appunto la gestione è un termine che io proprio non riesco a comprendere nel calcio. Secondo me una squadra che è abituata a fare un certo gioco deve continuarlo a farlo fino alla fine del novantesimo minuto. Voglio lanciare anche un altro tema, anche gli amici a casa, partendo proprio dal direttore De Paola. L'Inter ha le armi per far male alla Juve domenica? Ma io credo che l'Inter stia ancora ritrovandosi, obiettivamente. Cioè, 7 vittorie di seguito, grandissimi applausi a Pioli, ottimo l'inserimento di Gagliardini, che sicuramente a centrocampo è stato il giocatore che serviva all'Inter in quella posizione, una ritrovata linea di attacco con Icardi, che si presta anche al ruolo di assist man, quindi sicuramente una quadratura c'è. Da qui a dire che l'Inter è sicura, diciamo, di quello che riesce a fare in campo, ancora no. Secondo me non ha ancora trovato un consolidamento nel gioco, e quindi ci saranno altre prove. Diciamo che è un bel esame per Pioli, è un bel esame. Credo sia curioso anche lui di vedere la sua Inter cresciuta tantissimo, per motivi che abbiamo elencato mille volte, cresciuta tantissimo. Credo sia una partita che l'Inter abbia una gran voglia di giocare. Verissimo. Devo dire che sull'altro fronte, come avevo un po' preannunciato anche inizio campionato, mi sta un po' sorprendendo in questa fase il Milan, nel senso che è sicuramente una squadra di giovani che si sta facendo e sta crescendo, però avevo, diciamo, anche sull'area social anticipato un pochettino qualche critica, perché sento sempre fare i complimenti, non è che vorrei essere bastian contrario, ma una squadra che incassa in ogni partita sempre 2 gol, poi 3 ne perde e 1 la pareggia, non è che ci siano da fare sempre complimenti, probabilmente qualcosa che non va c'è. Sì, anche se Montella meritava di più. Allora, io ringrazio De Paola, direttore di Tutto Sport. Grazie, direttore. Grazie a voi. C'è Allegri, microfoni di Mediaset Premium. L'importante oggi era vincere, soprattutto fare una prova, diciamo, importante. La squadra ha fatto bene. Poi gli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo sbagliato qualche palla di troppo da dietro e non riusciamo più a uscire. Il secondo tempo invece è stato un bel secondo tempo, abbiamo concesso credo 2 tiri in porta al Sassuolo, e questo la dice lunga sulla prestazione dei ragazzi. Era importante non subire gol e i ragazzi sono stati bravi. Poi dopo ne abbiamo sbagliati diversi, e su questo invece bisogna migliorare, perché sono 3 partite che non riusciamo a andare oltre i 2 gol in partita con tante occasioni che abbiamo. A proposito di errori, siamo davvero alla cura dei dettagli. Intanto Higuain in gol per la 6ª partita consecutiva ed è arrivato a quota 15 come Icardi. 800-24-0024, un po' di temi li abbiamo buttati lì. Parlando di Federer, voglio sapere se per voi è il più grande di tutti i tempi, anche al di fuori del tennis, o chi è il vostro più grande di tutti i tempi. E poi, insomma, la caduta della Roma, l'Inter che domenica ha o no le armi per far male a questa Juventus, il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. tutti convocati. Alessandro per Mandžukić col tacco. Bene ancora per Alessandro che va al cross, basso dentro, arriva Higuain che anticipa tutti e con l'esterno fa 1-0 per la Juve. Va Muriel, avanti la SAP, 3-2, ribalta il punteggio. Muriel che ha ribaltato la Roma, che si è trovata due volte in vantaggio, non è bastato. Vi do un numero, la differenza di rendimento della Roma tra casa e trasferta. In casa 10 vittorie su 10 partite, quindi 30 punti su 30, in trasferta dove ha giocato 12 partite praticamente di punti ne ha fatti la metà, 17 su 36. È vero che da qualche domenica vinceva anche le partite sporche, anche le partite in trasferta complicate su terreni non semplici. Però è anche vero che poi ci sono che è forse limiti a subire gol, Giovanni. È tornato non aveva a subire ancora gol. Preso gol nel 2017. Due nelle ultime sette partite, se non mi sbaglio, non aveva ancora subito gol nel 2017. Oggi ne ha subito un mazzo di tre reti dalla Sampdoria. Poi ci saranno i moviolisti che discuteranno su quell'ultimo episodio, un fallo su Dzeko che era partito in posizione regolare e poteva essere un pareggio, ma poco cambiava comunque nella storia e di questa partita e di questo campionato. Abbiamo detto molte volte, è un campionato strano sui generis in cui queste occasioni se le perdi le paghi e la Roma la paga. La Juventus adesso veleggia alta, la Roma verrà raggiunta dal Napoli che batterà il Palermo, uso il futuro non il condizionale apposta. Quindi insomma io continuo ad essere dell'idea che il campionato sia chiuso. E quanto al Milan citato da De Paola tra le delusioni, io continuo a pensare che il Milan valga la classifica che ha, che la sua corsa la debba fare su Lazio, Atalanta, Fiorentina, queste squadre qui. Sì, in questo momento il Milan è settimo in classifica, quindi fuori anche in proiezione dalla certezza di essere in Europa League. Ci sono due episodi da Moviola, quello citato di Dzeko nei secondi finali di Sampdoria-Roma, e secondo me era calcio di rigore, e poi l'espulsione mancata di De Paul su De Sciglio. Un minuto dopo De Paul segna il gol del 2-1 con De Sciglio fuori, passando proprio dalla parte di De Sciglio. Banti non in condizione straordinaria in questo periodo del campionato. 800-24-00-24, aspettiamo anche le voci degli altri allenatori. Giulio dalla provincia di Modena. Giulio. Salve, buonasera. Ecco, proprio riguardava proprio il discorso del Milan dei giovani. Io chiedo una cosa a un vostro parere. In questi momenti i ragazzi giovani, lasciamo stare Donnarumma che è un portiere, quindi viene chiamato in causa in maniera più estemporanea, ma un Locatelli che se si chiamasse in un altro modo tutti le chiederebbero di tenerlo fuori perché sta giocando in maniera, con tutto il rispetto, in maniera abbastanza imbarazzante quest'ultimo mese. Sta giocando male, sì, sta giocando male, ma è il caso di confermarlo, è il caso di farlo crescere, è il caso di insistere. È giusto farlo giocare tutte le domeniche, cioè di insistere, oppure di dargli un po' di protezione proprio per non passare da predestinato a bruciato? Ecco, perché questo è il pericolo quando sono così giovani. Questa io è la mia io domanda. Credo sia il caso di stare dentro, cioè in una stagione bravo, così sono d'accordo con te. Ci manca che il Milan si metta a fare ragionamenti sono di questo tipo. Sono d'accordo con te, Giovanni. Locatelli deve giocare, deve fare esperienza, deve passare attraverso anche momenti brutti, momenti di scarsa forma, momenti di scarsa condizione, deve passare anche attraverso i 5 in pagella. È certamente un giocatore di talento e di futuro, qui non può giocare sempre bene. Sappiamo che i giovani spesso vanno su questa altalena che li porta ad alternanze di rendimento piuttosto evidenti, deve passare anche attraverso questi momenti e il Milan deve continuare così. E ripeto, è quasi ininfluente la classifica del Milan. Certamente deve provare a tornare in Europa. Certamente non è una squadra da primi tre posti a differenza dell'Inter e quindi è giusto andare avanti così, è giusto che Montella difenda Donnarumma, è giusto che difenda i suoi giovani, è giusto che costruisca qualche cosa in questa stagione, cosa che sta facendo. Donnarumma, su cui credo si ragionerà anche oggi, sul gol che ha preso, quello del 2-1 di De Paul. Un bel gol, però bel con gol. La mano c'era arrivato Donnarumma. Sì, ma non credo possa. Gli è passato tra il prato e la mano. Guarda che c'è Spalletti. C'è Spalletti che sta per iniziare a parlare a Premium Sport. Allora chiedo un istante di pazienza a Nicola dalla provincia di Caserta. Sentiamo Spalletti da Marassi. E poi dopo c'è stato un gran finale, però come se la squadra non avesse la capacità di sfruttare il vantaggio per due volte. Sì, diciamo che poi questi due momenti, sia dopo il gol che dopo essere passati in vantaggio, non abbiamo dimostrato quella maturità nella gestione che dovevamo avere, ecco. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' il ritmo della Sampdoria, siamo passati in vantaggio e dopo ci sono capitate un paio di occasioni importanti, però la Sampdoria giocava meglio di noi e soprattutto aggrediva più di noi ritmi alti che noi potevamo soltanto smorzare quando riconquistavamo palla nel tenerla e nel farla girare. Invece l'abbiamo quasi ripersa sempre, non abbiamo avuto la qualità per, diciamo, interrompere questa pressione che c'era, perché l'unico modo è che quando poi tu la riconquisti tu li vai a trovare quei buchi che tatticamente loro creano per fare tutto questo monte, tutta questa pressione molto alta, ecco. Mancata quella qualità lì, loro hanno fatto meglio di noi nel primo tempo. Secondo, hanno pareggiato meritatamente. Secondo tempo no, è secondo tempo differente. Noi siamo entrati in campo bene, pressavamo un po' più alti. Quando abbiamo tenuto palla li abbiamo fatti girare, avevamo la partita in pugno fino al gol. Dopo ci è capitato un'altra palla importante con Rajan Engolan al limite, vero? E poi ci sono stati questi tre minuti dove su questi rimbalzi, su questi cross, queste palle respinte, non abbiamo gestito, come dicevo prima, da squadra matura, perché ci siamo fatti cogliere di sorpresa da un momento, da un episodio che una squadra come la nostra può far meglio. Insomma. In questi casi questo è Spalletti che accusa, fra virgolette, la Roma di mancare ancora di maturità nella gestione di queste partite. Roma che veniva da 7 vittorie nelle ultime 8 partite e la sconfitta era stata quella di Torino con la Juventus, quindi una sconfitta, se vogliamo, accettabile, fisiologica, su un campo oggi impraticabile quasi per tutte le altre squadre italiane. Certamente fa più male questa caduta. Nicola dalla provincia di Caserta. Nicola. Buonasera. Buonasera a te. No, io volevo rispondere solo rispetto al tennista più grande di tutti i tempi riguardo alla partita di oggi. Ora, secondo me va distinto dal tennista uomo, dal tennista professionista e dall'innovazione che ha portato. Se facessimo riferimento all'innovazione, penso che forse sia stato il più grande, perché introdurre il top spin è stato quello che poi ha dato, diciamo, un nuovo stile, una nuova tecnica al tennis e ha modificato tutto il modo di giocare, perché siamo passati da un tennis fatto di Fioretto, diciamo, di Vilas, Anastase, molto talentuoso, molto bello da questo punto di vista, però un tennis, diciamo, con delle palle rotate, delle rotazioni cattive molto forti che poi sì, sono però state... Nicola, mi sembra che Federer sia la sintesi di tutto, cioè esatto. Federer è la sintesi di talento, della di sacrificio, di longevità, di precocità, c'è tutto, credo, in Federer, ma per questo credo che possa di diritto entrare anche in una galleria, nel Pantheon degli sportivi più grandi di sempre. C'è anche al di fuori che del ha mandato tennis. Una mail prima, l'ho letta, diceva Pelé Merckx, secondo lui abbiamo detto i più grandi di tutti i tempi. Io sono sempre contrario ai paragoni epocali, ricorda Ali. Perché Ali, beh, giustamente sono contrario ai paragoni epocali perché insomma sono un bellissimo gioco, ma sono giusto un mind game, quindi Federer è probabilmente il più grande tennista di tutti i tempi proprio per la ragione che dicevi tu, cioè è stato la sintesi di tutto quello che è venuto prima. Ci fermiamo, torniamo fra due minuti. 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19, arriva anche più Luigi Pappo. Tutti convocati. Benvenuto, questo è Micasa. Convocati. Ha raggiunto il nostro carissimo Pierluigi Pardo. Ci ha raggiunto? È caduto il nostro carissimo Pierluigi Pardo, ma adesso lo recuperiamo. Provato a raggiungerci. Ma io lo so perché è caduto, perché non vuole sentire la notizia che sto per dargli. E allora lo recuperiamo, sì, lo recuperiamo. Alla storia della schedina. Adesso ve lo dico, Paolo Sosa ai microfoni di Premium. Che cosa è più l'ha fatta arrabbiare della sua squadra? Due punti. Sì, due punti, uno guadagnato, tre. Potevano essere tre. Vabbè. Comunque sì, dopo un inizio che è sempre difficile giocare contro il Genova, che ti pressa uomo a uomo, sempre che esce fuori dalla pressione ti fa un fallo. Noi siamo stati consistenti fino a quando abbiamo marcato e abbiamo cominciato a allungare anche il nostro risultato. Purtroppo ci ha mancato chiudere la partita più che una volta, per questo un amarico in questa situazione, perché noi dobbiamo avere molto più fame in questi momenti di chiuderla e dopo star sempre attento per non motivare i nostri avversari a riaprire le partite, perché possiamo anche prendere questa decisione migliore nelle transizioni difensive che abbiamo fatto, che ha concesso al nostro avversario di riaprire la partita. E questo è Paolo Sosa, che si scrive anche lui all'elenco degli allenatori amareggiati di questa domenica, dopo Spalletti e immagino prima di Montella, che sentiremo. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Ma intanto te lo dico subito, benissimo, schedina trionfale. Beh, trionfale, uno ha fatto, Capuano ha fatto 4, Pardo ha fatto 3, poi ha messo lo stesso risultato per la partita di stasera che è scontata, e te la Sampdoria la digerisci proprio. Siccome so che lunedì scorso avete fatto delle ironie in mia assenza. Facciamo sempre delle ironie, anche in tua presenza. Ma una volta può capitare di perdere, non so. No, questa è la terza però, una volta. Vabbè. Campionato finito. No, stavamo notando con Carlo fuori onda Spalletti particolarmente dimesso. Sì, anche in campo mi pare, io un po' di partita, perché poi a un certo punto erano diventate quella e Udine nettamente le più interessanti, anche Firenze. E sì, uno Spalletti quasi rassegnato a un certo punto della gara, forse anche un po' tardivo nei cambi oggi, se posso. Detto questo, un po' tardiva, insomma, tutta la Roma, sembrava la Sampdoria quella seconda in classifica che deve provare a mantenere vivi i sogni. Però insomma, diciamo che oggi è venuto fuori secondo me qualche limite che questa squadra, secondo me, negli ultimi mesi è andata un po' al di sopra delle sue possibilità, sarà sempre sul filo, tutta una serie di vittorie. È chiaro che una sconfitta abbastanza sorprendente, soprattutto perché è in completa controtendenza con quella che era stata la Roma nell'ultimo periodo, che era una squadra che non incassava mai gol. Oggi ne ha presi 3, c'è qualche episodio, ma secondo me non basta, e il fatto di essere stati 2 volte in vantaggio secondo me è un aggravante. Certo, è una partita che ti hai rimesso subito in difesa. Ha ragione un amico quando dice quando sei 2-1 con la Samp la devi portare a casa. La devi portare a casa, soprattutto perché è stato molto bene. Quindi, soprattutto se hai ambizioni di scudetto, è il Napoli che ti soffia alle spalle. Questa sera avremo Napoli e Roma 47 punti. Vabbè, la Juventus è andata. Io sono ero già convinto prima, non sono mai stato per il campionato riaperto, vivo, eccetera eccetera. Ci sono gli scontri diretti, semmai questa giornata potrebbe secondo me significare due cose: innanzitutto che l'esperimento della Juve a 4 stelle, 5 stelle fate voi come in qualche modo sospettavamo una settimana fa, qualcosa che potrebbe durare e addirittura potrebbe diventare la base di partenza, cosa che io vediamo contro l'Inter, credevo. Vediamo contro l'Inter, ma intanto contro il Milan in Coppa Italia, oggi con Sassuolo e contro la Lazio si è visto, insomma, secondo me è abbastanza chiaro che non è una subordinata, o forse lo diventerà, ma insomma è un'ipotesi molto interessante. È anche il modo che ha trovato Allegri per rimotivare la Juventus e farla rimettere, credo, con la testa sul pezzo. Vi fermo un attimo perché c'è Montella, i microfoni di Premium Sport. Montella. No, non lo so, non bisogna vedere nelle prossime ore. Comunque ha preso una botta importante, insomma. Temete qualcosa di grave? Buonaventura. No, non penso. Ok, prego Dario. De Sciglio, che è uscito Sciglio dopo un brutto fallo di De Paul che andava espulso, questo è uno dei due casi di questa domenica, poi sul ribaltamento di fronte praticamente De Paul ha trovato il gol del 2-1. Ancora Montella. È una questione psicologica, come l'ha valutata? Ma no, se guardiamo solo al risultato sì, c'è qualcosa che non va, ma bisogna andare un po' più a fondo, almeno dal mio punto di vista. Abbiamo iniziato molto bene, potevamo forzare anche un po' di più la partita sull'1-0, potevamo chiuderla in qualche modo, ma questo non è successo anche per merito dell'Usinese. Era una partita di questo tipo, secondo me i ragazzi l'hanno affrontata molto, molto bene sotto questo punto di vista. Abbiamo preso un gol in uscita abbastanza banale, abbastanza semplice, che ci può stare, e poi il secondo tempo avevamo iniziato un po' come il primo, insomma, una netta supremazia, avevamo creato alcune occasioni e poi siamo stati particolarmente ingenui per questi livelli, subire un gol in inferiorità numerica con palla a proprio favore. Quindi io l'ho letta così, ci vedo tanti episodi, tanti spazi in questa sconfitta che sicuramente dobbiamo migliorare, ma a tratti i ragazzi hanno fatto una buona partita. Questo Montella, io posso dire a Pierre, io per carità, Montella è l'ultimo dei colpevoli, meritava di più dopo il miracolo del girone d'andata, però è la terza partita che il Milan fa male, perché ha fatto oggettivamente male a Torino col Toro, è partita malissimo a San Siro contro il Napoli, oggi ha perso una partita in cui comunque l'Udinese ha avuto tante occasioni, e lui racconta che va tutto bene. Ma che deve fare? Sinceramente non è questo, è chiaro che le cose non vanno bene, non c'è bisogno di... Quando perdi non vanno mai bene, sono tentativi di proteggere la squadra e di non ingigantire i problemi, cioè questo secondo me è un po' il discorso. È chiaro che il Milan, che credo nelle ultime sei partite abbia girato con 5 punti, se non cinque sbaglio. Punti nelle ultime sei. Insomma, è chiaro che qualcosa si è interrotto, no? Non c'è molto da discutere e non potranno essere certamente le parole di Montella a risolvere i problemi. In parte credo sia un vizio di gioventù. Il Milan è una squadra estremamente giovane e tale deve rimanere, e secondo me non è il caso nemmeno di drammatizzare questi risultati. È vero che le cose non stanno andando bene, però quasi il Milan deve correre e continuare su questa linea senza guardare la classifica, perché dove può andare? Inferiore alle attuali prime quattro della classifica, se la può giocare con Lazio, Atalanta e Fiorentina e Torino per andare in Europa League, e lì deve poter arrivare. Però questo è il valore assoluto del Milan, secondo me. No, io sono d'accordissimo, penso che sia assolutamente una lettura corretta, e credo che la prima parte della stagione in qualche modo aveva sicuramente un po' illuso, era fuorviante, insomma, l'avevamo anche in qualche modo detto, sottolineato. Certo, il calo adesso è abbastanza improvviso, no? È abbastanza tutto troppo rapido per non fare notizie. Quindi io sicuramente c'è stata una serie di partite, magari è andata dove Tino aveva raccolto di più di quello che meritava, adesso sicuramente le gira tutto abbastanza era brutto torto. Fallo su De Sciglio, bruttissimo il fallo di De Sciglio, era rosso diretto, però insomma Banti tra l'altro era reduce dall'arbitraggio contestato di Fiorentina Juventus, quello del fallo di mano non visto di Gonzalo Rodriguez, insomma evidentemente non nel momento migliore della sua stagione. Andiamo a Roma da Massimo, 800 24 00 24. Massimo. Sì, ciao a tutti. Massimo da Roma, il romanista. Posso fare una considerazione generale? 29 gennaio, sì. Campionato finito? Sì. Sinceramente è un po' triste, reputo, perché cos'è il sesto, sempre con la stessa direzione. Non per la Juve, ma per tutte le altre. E in più una considerazione specifica. No, te lo domando io. Torniamo ad agosto. Campionato mai cominciato? Non è da escludere. Qualcuno poi mi spiegherà Manolas oggi come mai in panchina, se è un mero calcolo perché è diffidato e quindi saltava Fiorentina. Sinceramente allora non capisco quali possono essere gli obiettivi di Scudetto in una squadra come la Roma, o può essere qualcun altro. Ultima, e vi lascio, sportivi più grandi di tutti i tempi, Mohamed Ali, Pelé, Alex Zanardi. Bello. Ali, Pelé, Alex Zanardi. Un bel bravo, podio. Bravo. Il tuo podio, Pier, qual è? Perché ne stiamo ragionando oggi dopo esserci emozionati per Federer. Certo, non mettere Federer oggi sarebbe insomma abbastanza difficile. Io vorrei mettere sempre a Rive Conte, ma questo è un fatto di passione personale. Beh, adesso dai, ci pensiamo, cioè, abbiamo 40 minuti di tempo per pensarci un attimo. Penso che la dimensione della Roma sia insomma la cosa di Paredes, che probabilmente dovrà essere ceduto, e fra l'altro insomma vedremo a chi, perché c'è anche la possibilità che poi venga rinforzata una diretta concorrente. Oggi Baldissoni ha detto che non sono arrivate offerte, tantomeno dalla Juve. Quanto fastidio possono aver dato queste cose, Pierluigi? Possono aver dato fastidio o stiamo cercando delle giustificazioni che non esistono? Ah no, ma io penso che la Roma non perdeva da 40 giorni, e oggi è stata anche un po' penalizzata dagli episodi, ha avuto un po' sdormicchiato in qualche situazione. Cioè, come sempre, sono i gradi di perfezione, la Juve è più, quindi poi alla fine la caduta è più probabile che avvenga per la Roma che per la Juve. Insomma, tutte le volte il campionato si riapre e poi sembra richiudersi. Io non penso che sia proprio finito tutto, ti dico la verità, io penso che la Juve lo vincerà senza grandi problemi. Penso che il campionato ancora qualcosa ci possa regalare, perché comunque la Juve ha due scontri diretti, uno a Napoli e l'altro a Roma, perché il Napoli io lo vedo molto bene, adesso vedremo che cosa succederà stasera, ma il Napoli in questo momento secondo me ha una continuità che lo rende certamente migliore della Roma e che lo può avvicinare anche alla Juve. Quindi sono abbastanza curioso. Certo, Napoli oggi, che però ha fuori casa lo scontro diretto con la Roma, fuori casa l'Inter. Con l'Inter, sì, quindi no, non ha un calendario facilissimo. Tra l'altro il Napoli ha pagato gli scontri diretti. No? Secondo me, Pier, il ragionamento è questo, e la dimostrazione plastica è data dalla Roma di oggi. Roma che sta facendo comunque un ottimo campionato, perché volendo è ancora oltre gli 80 punti. Però il problema è che per restare in scia alla Juve devi girare. Oggi se la Roma avesse vinto avrebbe avuto una proiezione tra gli 86 e gli 87 punti. Cioè stiamo parlando qualcosa da record, di stratosferica, e quindi ogni tanto si cade. Non ci dimentichiamo come è iniziato questo campionato. È iniziato con la Juve, cioè la prima del campionato scorso, che ha comprato il miglior giocatore della seconda e uno dei migliori giocatori della terza. Questo è il punto di partenza, è una situazione da questo punto di vista non molto diversa da quella che c'era qualche anno fa, quando la Roma di Rosella Sensi provava strenuamente a contrastare il dominio, il monopolio dell'Inter, ma era magari costretta a dover vendere i giocatori, come è successo con Mazzini, con Chivo. Cioè è un po' questo lo stato dell'arte, non è molto diverso da quello che succede in Germania, dove il Bayern si compra i migliori giocatori delle dirette concorrenti. Quindi è uno stato di dittatura, questa dittatura è molto difficile da rovesciare, perché l'anno scorso c'è stata una possibilità, perché all'inizio del campionato scorso la Juve, ricorderete, ha fatto una grande opera di rinnovamento che sicuramente ha pagato in quelle prime 10-12 giornate, perdendo giocatori sicuramente di grande esperienza e di grande peso all'interno dello spogliatoio. Quest'anno, insomma, l'anomalia era che ci fosse ancora un campionato. Sì, che fosse ancora aperto. Io posso dirti che immagini invece un Inter che si avvicina a Napoli e Roma. Poi vediamo anche due numeri sull'Inter, che sono clamorosi. Vedo un Inter che può andare a inserirsi nella lotta tra quelle due lì. Sì, scrive un amico, aumenta il rimpianto per quello che è stato De Burra. E non dirlo a noi, carissimo Ulisse, almeno a qualcuno di noi, che De Burra l'ha combattuto sin da fine agosto, l'ha combattuto insomma per quello che si vedeva in campo. Abbiamo il traffico, io vi leggo due cose che riguardano la Juventus. Intanto Allegri su Dybala, che si è arrabbiato al momento della sostituzione, ha detto capita, ma Mandzukic e Cuadrado avevano più gamba di lui e quindi deve accettare la sostituzione. E poi Buffon, che ha detto la Roma ha perso, non sapevo nemmeno che giocasse. Questo documenta lo stato dell'arte. Mi domando però, e poi ne parleremo immagino in prospettiva anche nel confronto con l'Inter, quanto possono andare avanti su questi livelli fisici Mandzukic e Cuadrado. Ecco, perché Mandzukic oggi ha fatto un'altra partita straordinaria lungo tutti i 100 metri del campo. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Sì, c'è chi scrive su De Burra, avevate ragione voi, ma sulla squadra no. Sulla squadra avevo ragione io. Io non so cosa dicesse questo amico sulla squadra dell'Inter. Fatto è che da quando è stato licenziato De Burra, l'Inter viaggia a una media che spalmata su tutto il campionato farebbe più o meno 96 punti. Che sono tanti, troppi probabilmente, sono troppi, per questa squadra. Cosa vuol dire sulla squadra no? Però fanno anche riflettere tanto. Non lo so, magari adesso ci scrive 349-238-6666 e ci spiega cosa voleva dire. Sinceramente non sono sorpreso dal 3-0 su Pescara, sinceramente, quindi diciamo che settimana non è che aggiunge molto altro, però insomma mi assumo le mie responsabilità. Penso che non pensavo che ci fosse una crescita così rapida, così veloce e così prepotente. È chiaro che adesso c'è una partita, quella contro la Juve, che sarà molto interessante, perché ci darà una dimensione esatta e corretta, con tutto il rispetto per le squadre che ha affrontato l'Inter prima. Mi ricordo nel post partita di Udinese Inter c'era Ausilio che faceva due conti e diceva: adesso nelle prossime tre partite abbiamo Chievo, Pescara e Palermo. Quindi, diciamo, nelle ultime tre giornate l'Inter ha fatto cose normali, che poi non era scontato che le facesse, quindi merita un applauso sicuramente, perché poi le partite vanno vinte, però è ovvio che adesso è il momento della verità, insomma, e adesso avremo un'idea. Ci faremo un'idea di valore assoluto, no? Diretto con la Roma, cioè Comunque dopo il GR vi do due numeri con un ragionamento statistico su perché l'Inter si è guadagnata la possibilità di perdere serenamente domenica sera a Torino e restare competitiva per perdere, il terzo bisogna posto. Vedere anche come affronta la partita, Giovanni. È una partita che può dare indicatori, è una partita che può anche perderla, può anche perderla. A proposito di immortali, posso sottolineare ascoltatori in linea, li facciamo parlare. Ne abbiamo due, abbiamo Gianmaria e Fabrizio. Posso sottolineare a Giovanni, a Pierluigi, a tutti quanti voi all'ascolto, a proposito di anziani, va bene, Federer oggi c'è stata questa corsa sulla macchina del tempo, però tutte le volte che vediamo Totti alzarsi dalla panchina e come entra, mette lì un paio di chicche, spalma sul campo un paio di gemme. Con tutto rispetto per Spalletti, c'è un lavoro straordinario, secondo me in assoluto, che oggi forse qualche minuto prima poteva anche entrare. Lo mette nei momenti disperati, tra l'altro. Però la quantità di occasioni che questo giocatore è ancora in grado di riuscire a creare è veramente, cioè la densità di occasioni, il quoziente minuti per occasione, bravo, è veramente incredibile. Quindi insomma, aspetta che a sorpresa siamo riusciti a trovare acceso il telefonino di uno dei nostri amici romanisti. Oggi latitavano tutti finché non ci ha risposto Luca Telese. Ciao Luca. Ciao. Se l'era magnato il cane il telefonino oggi? No, ma non il suo, lui l'abbiamo chiamato al volo. bocca al lupo per domani. Quando vi siete sintonizzati ho subito pensato e sono d'accordo con quello che sta dicendo Pier. Non si capisce perché Totti in una partita così deve essere centellinato. Totti è stato messo fuori da qualunque formazione, ma anche dai 15 minuti di rincalzo finale per un'intervista di Rai Blasi. Questo è nel carattere di Spalletti, non c'è un'altra storia. No, ma da allora è uscito. Ma da prima. Questa partita, ma secondo me da allora, perché poi aveva vinto la battaglia con quel finale di campionato strepitoso dell'anno scorso e le cose si erano acquietate. Adesso, dopo quell'intervista di Blasi, non è più tornato titolare, ma non è certo solo Totti il rimpianto di questa giornata, ecco. Hai visto Spalletti un po' dimesso sia durante che dopo? Analizzavamo prima magari qualche cambio fatto in ritardo, dopo ha detto vabbè, insomma, se abbiamo... come la Roma di oggi . È stata una squadra non col fuoco agli occhi. Forse il fatto di aver vinto 4-1 psicologicamente ha pesato, no? Quando tu vinci 4-1 in Coppa Italia e dici vabbè ci ritorno, è una pratica già chiusa, arrivi troppo sicuro, un effetto ingannevole che probabilmente ha pesato sulla psicologia della gara, perché altrimenti non si spiega essere andati sotto così, aver subito in questo modo, per quel che riguarda la Roma. Ma è finita qui? Hai paura di quelli che arrivano dietro? Ti fa paura l'Inter? Ma figurati, il campionato è ancora tutto aperto. Il Crotone ha fatto 4-1, farà 1-0 con la Juve. Tutto aperto, registrato. E il campionato si riapre, perché arriva lo stesso effetto Crotone. Babbo Natale, bisogna aspettare 25 dicembre ancora? Ma no, siete provocatori. Ma dire un campionato chiuso alla seconda giornata del ritorno mi sembra follia pura. Infatti, secondo me era chiuso un po' prima di cominciare. Io volevo sottolineare la nemesi del signor Telese, al quale faccio ovviamente un grande in bocca al lupo per un programma che però si chiama Bianco e Nero. Il 6, quella è una vendetta raffinata che la rete vi propina. Bianco e Nero è veramente una nebbia, deve essere una condanna, però è la cronaca bianca e la cronaca nera. Non c'entra niente il nuovo logo della Juve che ha il tono di Spalletti. Telese, ha il tono di Spalletti oggi, ma che succede? Oh, su con la vita. Ma siamo un po' depressi perché siamo fatti di carne, di sangue, non siamo dei gigrobot, dei supereroi. Poi io oggi sono appagato al gol di Borriello, quindi questo è il mio premio di consolazione della giornata. Vabbè, qui siamo davvero ai ritagli. Sì, alle frattaglie. Per trovarsi una soddisfazione, grazie e poi Luca. Domani il bianco e il nero. Quindi... Sei, sintonizzati e il 6 parleremo. Dell'aggancio in classifica e tutte queste chiacchiere sul campionato finito saranno definitivamente sepolte. Va bene, questo spottino che ti ho fatto tu alla fine lo ricambierai in onda dicendo alla fine della puntata adesso girate su Instagram, facciamo questa roba Sticky Crime. Facciamo questo accordo, grazie Luca. Accordo internazionale. Grazie Luca Telese. Ciao Luca. Ciao Luca. Allora, Gianmaria e Fabrizio. Prima Gianmaria. Eccoci, buonasera a tutti. Grazie per la convocazione. Grazie. È un piacere trovarvi tutti e tre. Niente, io chiamavo per lo sportivo di tutti i tempi. Sì. Michael Jordan, Carl Lewis. Però io vorrei fare una menzione per una figura sicuramente secondo poco conosciuta. Secondo me nessuno di quei due lì, però prego Gianmaria. Provo col terzo che non conoscerà nessuno o in pochi. Dicevo, una menzione per questo personaggio e per uno sport non così famoso come altri che è l'ultra trail, le corse in montagna, deserto, eccetera. E lo sportivo è Marco Olmo, del 1948, ma che corre oggi e che all'età del 58 anni ha vinto per 2 anni di seguito l'Ultra Trail del Monte Bianco, che è una gara massacrante di 100 chilometri senza sosta, correndo di notte, ed è veramente, se avete occasione di poter andare a vedere chi è questo personaggio, stanco, Marco Olmo, adesso andiamo a cercare. Sono già stanco solo a pensare. Socchiatone. Io ho anche freddo solo a pensarci di notte sul Monte Bianco. Che fra i grandi tifosi, a proposito tra i grandi tifosi di Federer c'è Antonio Cassano, insomma, l'ha detto mille volte, no? Allora gli ho mandato un messaggio a fine partita, mi ha detto non sudavo così nemmeno quando giocavo, e quindi insomma, io sudavo adesso nel sentir parlare del signor Olmo. Però Jordan sì, oh dai, come Jordan no? Bah, dai. Non lo so, si può fare meglio. Ma come non lo... C'è chi suggerisse Jesse Owens per quello che ha rappresentato. Intanto allora, stiamo giocando, io mi tengo Michael Jordan, ragazzi. No, poi Jordan, fate quello Jordan che volete. Ma proprio a spasso. Ma non lo so. 800-24-00-24, però noi stiamo qua. Però tu ci devi dare i tuoi ancora. Fabrizio da Firenze. Fabrizio. Sì. Allora, uno è Jordan, ne mancano due. Fabrizio. Buongiorno a tutti. Nulla, io non volevo parlare della Fiorentina, sinceramente, sono un tifoso da Viola e niente, volevo parlare dell'ennesima occasione persa dalla Fiorentina per la giornata. Mi risento la voce, non riesco a parlare. No, dai, forza che noi ti sentiamo bene. Va bene, volevo dire che la Fiorentina ha perso un'occasione buona per rimettersi in corsa al campionato, nel senso che oggi abbiamo pareggiato 3-3 con il Genova, una partita vinta già sul 2-0, ci siamo incasinati non so per quale motivo la vita, e mercoledì avevamo pescare, partita ancora da giocare però tecnicamente molto facile, per ritornare ai vertici. La Fiorentina gioca bene, non gioca male, ha vinto la Juventus, ce l'ha messa tutta con il Napoli, anche lì non ha fatto una buona partita, soltanto un errore di un difensore ci ha portato a perdere anche in Coppa Italia, insomma non si sta tirando bene. No. Volevo dire questa la mia amarezza. Hai ragione Fabrizio, il che comunque prosegue il dibattito anche su Paolo Sosa, perché poi gli allenatori devono portare risultati commisurati a quelle che sono le potenzialità di una squadra, ma buttarsi via come ha fatto ad esempio oggi la Fiorentina e come spesso ha fatto anche nella seconda metà della scorsa stagione, insomma qualche domanda la fa fare. Noi ci fermiamo, c'è il GR, resta con noi Pierluigi Pardo, mancano due dei suoi tre del Pantheon, i più grandi sportivi di tutti i tempi, aspettiamo anche i vostri. 800-24-00-24, torniamo subito. Tutti convocati. Io non gliela faccio più ragazzi, mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Deborah, ci sei? Sì, ma ho un dolorino un po' qua dietro al collo. Perfetto, Cadi e Fagiolo Tempismo, magnifico perché a febbraio Cuore Denari è il mese delle articolazioni. Il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, ma anche docente all'Università degli Studi di Milano, ti rimetterà sicuramente a posto e soprattutto ci farà capire se ti lamenti di gamba buona. Mi sento già meglio, però mi è rimasto un po' di bruciorino di stomaco. Ma Deborah, dai, ce l'hai tutte tu. Dai, ascolta Cuore Denari, ogni mese un consiglio per investire in salute. Tutti convocati. Questo scambio, questo è uno standing ovation per 5 minuti. L'ha fatto vedere per sempre. Non mollava di un centimetro né l'uno né l'altro. Che scambio! Che scambio, che partita, che di cosa stiamo parlando? Di Sassuolo Juve, di Sampdoria Roma, di Udinese Milan. Ovviamente no. Inter Pescara, no. Federer Nadal questa mattina. Allora, c'è chi dice Jordan, Muhammad Ali e perdonate un po' di libro cuore, ma anche mio padre, maestro di tennis fino alla pensione. Luca, gliela passiamo. Questo è il suo pantheon dei più grandi sportivi di tutti i tempi. Aspetto sempre i vostri 800 24 00 24. Io mi chiedo come facciate a non citare Pelé, ad esempio, ad esempio Pierluigi Pardo. Che se devi citare un calciatore, ma citi Maradona. Ma per sì, ma come si fa a preferire Maradona a Pelé? Ragazzi, come si fa? Sono due epoche diverse. Ma ho capito, ma che cosa vuol dire? Anche insomma, stiamo facendo un ragionamento che tiene dentro le emozioni, tiene dentro la da barba, la figurine. Talento, io Maradona per Pelé mi prendo Maradona. Perché dovrei mettere un grandissimo come Pelé, che però io personalmente non ho mai visto giocare, l'ho studiato. Di che parliamo? Parliamo di Pelé, c'è da ridere come cosa, un po' piangere. È il calcio, però, è il calcio. Sì, Pelé è il calcio, è anche vero che è un altro calcio, è vero che è un calcio che non è poi mai confrontato con l'esperienza in Europa, quindi non abbiamo mai avuto quel metodo di paragone. Insomma, voglio dire, è soggettivo. Io Pelé tra i tre non lo metto, perdonami. C'è chi ci accusa di non aver nominato Valentino Rossi. Secondo me, gli sportivi con in mezzo un'auto, una moto, comunque uno strumento che faccia da intermediario tra sé, la propria prestazione e il risultato, sono grandissimi. Stiamo facendo Valentino della Rossi è un grandissimo, ragazzi, però non sta nel pantheon. Stiamo facendo della filosofia oppure stiamo facendo delle gran masturbazioni mentali. Voi non avete accettato io me. Zlatan. Sì, solo perché qui voi Zlatan, Valentino e Jordan. Zlatan, bravo, ma si può. Qua voi fate troppa televisione, ok? No, qui facciamo la radio. Why la don't radio, you radio, say sì. Zlatan Ibrahimovic the best of the world? Perché? Okay. Perché non l'abbiamo cazzo detto? Guardi, gente. Perché cazzo non l'abbiamo guardi detto? Quante coppe dei campioni? Bravo. No, ma attento che si arrabbia. Allora, 800 24 00 24, però insomma io voglio sapere il vostro pantheon, insieme a tutte le altre cose. Francesco da Lodi, Francesco. No, più che altro posso sottolineare, Francesco mi scusi, ma posso sottolineare a todo il mondo il fatto che la frase della domenica è stata quella, comunque volendo essere anche un po' piccanti, di Buffon, che l'hai citata tu prima, Giovanni. Sì, no? Sì, la Roma ha perso, la Roma ha perso, non sapevo giocasse. Neanche che giocasse. Questa mi sembra la più piccante della giornata. Dica. Mi sa che gli si è allungato il naso Buffon, intanto che lo diceva. Dici? Ah, non so se sì. Si... è chiaro che è una battuta, sapeva perfettamente che la Roma giocava, però proprio per questo mi sembra la più piccante della domenica. Io li ho visti giocare, voglio dire, Maradona, Platini e Totti nel calcio italiano. nel calcio italiano. Sì, ma questo è il pantheon del calcio italiano, va bene. Esatto, ma, Maradona, i calciatori però, di tutti i tempi. Però secondo me nel pantheon mondiale degli sportivi non ci sta nessuno di questi tre. Però questa è la mia, questa è la mia opinione. Non l'ho visto, devo rimproverare a Pardo la schedina che ha toppato alla grande. Sottolineiamolo, sottolineiamolo. Io l'ho giocata. E poi non mi ricordo come l'hai giocata. Ma ragazzi, non mi date questa responsabilità. Ragazzi, non potete giocare la schedina di Pardo. Ma Pierluigi, tu il venerdì fai la schedina e dici siamo tra l'8 e il 9. Il Rinaldo Pesciotto avevano detto che la Juve giocava al 40%. Sì. Giusto? Allora adesso ha inserito la quinta. Sì, sì. E poi arriverà anche la sesta, perché la macchina a 6 marce. Vabbè, la quinta è già più che sufficiente per l'Italia, bisogna vedere quanto tiene quando si affaccerà di nuovo in Europa. Anzi, da questo punto di vista io credo che il test di domenica sera, sono d'accordo con il direttore di Tutto Sport De Paola che abbiamo ospitato alle 5 all'inizio di trasmissione, anch'io credo che Allegri andrà con la stessa formula domenica sera contro l'Inter, e sarà un test credo probante, sarà un crash test, perché in questo momento l'Inter è uno scoglio non banale da superare, e quindi provarci con quel tipo di formazione, potendosi anche permettere magari mezzo passo secondo falso. Voi che va con, secondo con me questo, sì, secondo te Pier? Anche schermo. Secondo me sì, anche sì. Secondo me poi c'è tutta una settimana per separarla, poi in questo momento è il modulo di partenza in questo momento, poi io penso che Allegri le risposte le stia trovando partita dopo partita, i benefici sono nettamente superiori ai costi. Quindi secondo me va avanti con questa strada. Poi è ovvio che soluzioni di tipo diverso, quando magari Marchisio sarà completamente recuperato, ci potranno essere. Non è che la Juve potrà giocare solo in questo modo. Però insomma, io ne parlavo esattamente una settimana fa dopo Juve Lazio. Credo che questo tipo di intuizione sia un'intuizione che spariglia dal punto di vista tecnico la stagione della Juve, perché è in linea con quello che i grandi club a livello internazionale fanno quando devono fare un salto di qualità. È solo se tu riesci a trovare un equilibrio tra i migliori che hai che puoi fare un salto di qualità. Se abdichi alla qualità tecnica, perché questo equilibrio non riesce a supportarlo, poi certo mi viene in mente che domenica sera Mandzukic si troverà davanti o Perisic o Candreva, che per carità non sono Messi, Suarez e Neymar, però cominciano a essere un test probante, lo stesso vale per Cuadrado. Per questo dico, è una partita molto interessante al di là dei risvolti per la classifica. Alessandro da Belluno. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. Volevo fare un'osservazione sul momento dell'Inter, diciamo, e su come viene presentato, diciamo, anche da voi, segnalandovi un po' provocatoriamente, diciamo, la mia delusione per come, diciamo, vi ritengo un po' diversi magari anche dagli altri giornalisti sportivi, e per quanto ci si stupisce, insomma, di questo positivamente, di queste vittorie consecutive dell'Inter, diciamo. Io non sono granché stupito, Prego, no, Alessandro. Infatti, che diciamo per la squadra che c'è, insomma, le 7, adesso non so quanti siano, premetto sono juventino, sembra siano 7 le vittorie dell'Inter, insomma, e la squadra, diciamo, c'è da, io credo, insomma, 2 o 3 anni per fare un pilota di vittorie consecutive di questo tipo. E spingendo un po', diciamo, ecco, l'enfasi su tutte quante su questo periodo, insomma, secondo me è, senza, diciamo, poi andare a vedere come reagirà ad un primo momento di difficoltà, è un po' inutile, diciamo, perché appunto essendoci la squadra da 2 o 3 anni, le mancanze eventualmente che sono invece per quanto riguarda la società adesso. Io non l'ho molto capito questa cosa, nel senso, e fra l'altro non sono neanche del tutto d'accordo, nel senso che la squadra secondo me è migliorata quest'anno, anche secondo me Perisic è un giocatore che quest'anno sta facendo molto bene, Icardi sta maturando di stagione in stagione, già 2 anni fa aveva fatto benissimo. E poi sicuramente Pioli, lo possiamo dire, è in questo momento è il miglior allenatore degli ultimi anni dell'Inter, non c'è dubbio, con tutto il rispetto per Mancini, che io stimo tantissimo, però non posso contraddirmi. Io credo che Mancini potesse fargli più e meglio, credo che la sua seconda esperienza all'Inter non sia stata all'altezza delle sue aspettative, per dei motivi che ovviamente non sono soltanto colpa sua, però certamente poteva fare di più. Pioli indubbiamente adesso sta avendo un risultato strabiliante. Detto questo, attenzione, perché ribadisco, sono 7 vittorie, per carità, sono 7 vittorie, 7 vittorie sono 7 vittorie, non c'è da girarci attorno. La squadra sta crescendo, ha una mentalità completamente nuova. Nelle ultime 3 partite si è vinto col Chievo, col Palermo e col Tutti omettono di ricordare le prime 3 partite di Pioli, perché tutti fanno finta di ricordarsi solo queste 7. Pioli, e questa è la prima parte dell'algoritmo, Milan. Pioli ha giocato contro 4 delle prime 7 in classifica, diciamo le prime 8, ma una è l'Inter, e quindi ovviamente contro se stesso non poteva giocare. Quindi non è vero che ha avuto tutto questo calendario favorevole, e in queste 10 partite ha viaggiato a 2,5 di media a partita, perché anche in quelle gare lì è vero che ha perso male a Napoli, ma ha pareggiato il derby, ha vinto con Fiorentina e ha vinto con Lazio. E se rifà così da qui a fine campionato, ci arriva in carrozza in Champions League. Perché tutti dicono che è perché ha avuto il calendario facile, e si ricorda che adesso ha vinto con Chievo e Pescara. Attenzione, le ultime partite, comunque voglio dire, calendario facile, oggi la Roma ha perso contro la Samp, quindi voglio dire, devi anche vincerle. Esatto, devi anche vincerle, non c'è discussione. No, ma quello che sta facendo Pioli è, fino a qualche partita fa era buono, adesso sta diventando esaltante. Non è che ci si può girare attorno a queste cose, sta migliorando tanti giocatori, il caso di D'Ambrosio ieri ha segnato, mi sembra emblematico come ha migliorato i terzini, come ha rimesso a posto il centrocampo, la crescita di João Mario, cioè ha veramente risistemato le cose, e quindi merita assolutamente tutti gli applausi del mondo. Ma questo è quasi banale da dire, credo che ne sapremo qualcosa di più nel prossimo mese, insomma vediamo come finisce febbraio, perché c'è Juve Inter e poi c'è Inter Roma. Poi è ovvio che se l'Inter fa 4 punti tra queste 2 partite, allora vale tutto. Certo, si apre tutto. Allora, rapidissimo, prima del traffico, 349-238-6666, Jordan Bolt e Phelps, Jordan Ronaldo e Phelps, c'è chi vorrebbe Foreman tra gli sportivi più grandi di tutti i tempi, che fino a 50 anni ha fatto a pugni con i giovani, c'è chi vuole citare Gigi Riva, Ayrton Senna, grandissimo uomo oltre che sportivo, Alfredo Di Stefano, grandissimo calciatore che ha avuto il solo difetto di essere in bianco e nero. Vi aspetto, 800 24 00 24, traffico, tutti convocati, ci impegniamo, parli, grida, smadonni, ci rompi i coglioni, fai. Convocati. Mori, scusami, tu sogni? Di rado. Nelle rare occasioni. O se sogno non mi ricordo niente la mattina, non può darsi sia anche così. Vabbè, ma il pomeriggio te lo ricordi. Tra Coppa Italia, no. Champions e campionato, che sogni di più? Io sogno in questo momento in Palermo. A me interessa la partita. Quindi l'incubo. Mi interessa la partita di domani, è inutile stia a pensare alla prossima partita di Champions che c'è fra 20 giorni o alla prossima partita di Coppa Italia che c'è fra un mese, non ho ricordi, però visto che tutti sognano, può darsi che sia un inizio della decadenza dovuta all'età e non mi ricordo più un cazzo. Sognare deve sognare gente, tifosi, però dobbiamo stare a piedi per terra, dobbiamo pensare partita dopo partita, dobbiamo pensare a preparare tutte le partite come se per noi fossero la partita della vita e stop. In un lavoro in cui ti metti in ballo ogni 3 giorni non vedo come si possa andare a pensare a un arco temporale superiore alla settimana, è una follia. Tu sogni, Piera? Sì, te lo ricordi poi, no? No, mi sono stesso l'incoglionimento di Sarri. Mi ricordo molto poco. Gianni De Biasi, ciao, buonasera. Ciao, mister. Tu sogni? Ma ogni tanto. Ma te lo ricordi? Perché questo è l'altro grande tema di questa domenica. Sì. Specie se mi sveglio e poi mi riaddormento e sogno in quel frangente, mi ricordo più facilmente. Pensa a te. Quando si arriva a una certa età, Buffon non sapeva che giocasse la Roma. Oggi abbiamo un capuano da psicanalisi, in veste psicanalitica. Va bene, se, ma fa bene o no Sarri a dire che non sogna lo, di poter fare campionato per lo scudetto? Insomma, intanto questa sera il calendario e la sconfitta della Roma gli consegna l'opportunità di sarsi al secondo posto. Perché non firma niente, fa bene, ma è realista e sa quali sono le, i valori. Ma io credo che Sarri sogni e abbia sognato fin da piccolo e sogni anche un Napoli che possa raggiungere un obiettivo importante, che non stiamo qui a dire, però è chiaro che si vive settimana dopo settimana. Giustamente lui pone il focus sul Palermo, perché potrebbe essere un'insidia affrontare una squadra che tutti ritengono più scarsa, più debole, però il calcio insegna che spesso e volentieri si perdono i campionati. Leggi Roma contro Lecce, ultima partita di campionato in casa ai tempi di Eriksson, e quindi ognuno deve cercare sempre di stare con e di tenere la tensione sempre al massimo. Sì, anche perché poi quello che arriva dopo è complicato, arriva una sfida, quella con Real Madrid, che ruberà tonnellate di energie, credo, sì, psicologiche, prima ancora mentali, che fisiche. Però io posso dire quella che è una bestialità, sottolineo il fatto di nuovo che la frase del giorno è quella di Gigi Buffon: non sapeva neanche che la Roma giocasse oggi, quando gli è stato fatto notare che la Roma ha perso. Ovviamente scherzava, ma è uno scherzo pesante. Posso dire che vedo il Napoli più squadra europea che non squadra italiana. Con questo non voglio dire che possa vincere la Champions League, dico però che questo Real Madrid, se si arriva così tra 20 giorni, non farà, insomma, non dovrà passeggiare per superare questo turno. E poi vediamo. Sì, e a me la domanda? Ah, non è una considerazione che io giro, risponde chi vuole, tema libero. Ma io credo che sarà una partita molto difficile, purtroppo, perché quando entri e senti la musica della Champions, poi ci sono grandi campioni dall'altra parte. Credo che sia un'impresa difficilissima per il Napoli, però non impossibile, come dicevo prima, nel calcio nulla è impossibile, però ci sono chiaramente delle situazioni da tenere in grande considerazione. Io sono anche curioso, Pier, di vedere Sarri, che si è sognato Mertens centravanti dopo aver perso Milik, che cosa sogna da qui a Madrid, ora che gli tornano Milik e Pavoletti. Sì, beh, questo è il tema tattico, non è più interessante. Perché però noi parliamo di Allegri e della Juve, e le sue 5 stelle, quando le usa, quanto le usa, quando le toglierà, però anche questo è un tema non da poco. Sì, questa è una domanda poco. Io credo che in generale però il Napoli abbia una profondità di rosa che poi parlarne oggi dopo la sconfitta della Roma col Napoli che stasera può fare l'aggancio è abbastanza, se vuoi, facile. Però secondo me è così, è una cosa che, insomma, in qualche modo anche quando facevamo, delineavamo la gerarchia della stagione, insomma, Napoli per me è sempre stato la seconda forza. In questo momento mi sembra che sia abbastanza chiaro, abbastanza evidente, anche perché comunque sul mercato il Napoli si è mosso. Aveva un solo problema, che era quello del sostituto di Milik, l'ha preso la Roma, magari vende Paredes, c'è la possibilità di vendere Paredes. Mi sembra un po' diversa come tipo di situazione, e sono d'accordo con Carlo sul fatto che sia squadra europea, nel senso che è squadra da grandissime partite più che da regolarità, perché è una squadra particolarmente champagnona, no? Se mi passi questa espressione, una squadra che gioca a pallone, quindi quando va a livello europeo se lo trova contro tutti. In Italia ogni tanto ha qualche passaggio a vuoto, anche se poi alla fine il passaggio a vuoto che è durato tanto, troppo, però è stato molto, molto circoscritto. Cioè il Napoli ha avuto un mese e mezzo di confusione, da quel momento in poi non ne sbaglia più una. Quindi attenzione, io ti dico, sono ancora convinto. Napoli ha avuto 21 giorni di confusione. 21 giorni di confusione. Il segmento di stagione dopo l'infortunio di Milik, sì, di rientro da quella sosta, si è pianto anche un po' addosso. Ha avuto anche la sfortuna di giocare contro Roma e Juventus, sì, nel momento in cui non aveva ancora rimesso in ordine le cose. Ha fatto 10 punti in 7 partite. C'è so che vi annoia questa cosa. Di però. Piangersi addosso, che poi i fatti dimostrano non fosse opportuno. Piuttosto, volevo chiedere a Gianni De Biasi, fisiologicamente, quanto puoi chiedere a due giocatori come Cuadrado e Mandzukic di giocare in quella maniera? Oddio, sicuramente Cuadrado lo può fare perché ha quantità, oltre alla qualità che gli conosciamo. È un giocatore che corre tantissimo, ha una struttura fisica. Mandzukic si sta sacrificando in quel ruolo, ma lo sta facendo bene. Anche oggi nasce il primo gol sulla sua l'intuizione di tacco dove manda Alessandro a mettere la palla a sinistra, e credo che si stia adattando, perché capisce anche lui che Higuaín è la punta di diamante e lui si deve adattare a quelle che sono un po' le esigenze della squadra. E mi sembra che oggi, ho seguito la partita, la Juventus ha giocato una delle più belle partite contro Sassuolo, che ha avuto difficoltà nel contenere, nel riproporsi. Credo che la Juve non abbia avuto cali di tensione come ha avuto magari nell'ultima partita di campionato. Questa strada qui del cercare, prima c'era Ancelotti che ha abbassato Di Maria, ha vinto la decima, no? Ti ricordi? Poi a Lisbona, penso a Mourinho che vince la Champions chiedendo ai Toti di fare il terzino con le Top Under, Snyder e Milito insieme. Puoi pensare anche al centrocampo di Ancelotti, che è il famoso albero di Natale, in cui tutta la qualità che aveva messa in campo. Qui del aumentare il tasso tecnico chiedendo il sacrificio è la strada che può essere giusta anche in Europa? Sì, credo proprio di sì, perché devi avere la padronanza nella gestione della partita, di saper tenere il pallone, di non avere poco possesso palla, perché il possesso palla conta, ma al tempo stesso devi anche sapere verticalizzare, devi sapere aprire gli spazi, devi avere degli spazi per dove i giocatori si vanno ad inserire, e la cosa fondamentale è che la squadra rimanga corta, che si aiuti nella fase del non possesso e che in fase di possesso abbia la possibilità di avere passaggi facili, che gli consente a giocatori che hanno qualità, che hanno destrezza tecnica importante, di fare la differenza. Io credo che il segreto del calcio sia in queste piccole cose qua. Poi gli equilibri sono quelli che alla fine ti danno solidità, perché le squadre sono fatte di tanti singoli che però devono essere funzionali e devono sapere interagire tra di loro. Io aggiungo anche che Allegri così mette il suo sigillo, e mi viene in mente Ancelotti. Quando si parla di Ancelotti si ricorda che cambiò ruolo a Pirlo. Lo stesso Mourinho con Eto'o, mi viene in mente Zaccheroni, che a un certo punto prese e spostò Boban dietro le punte. Diranno che il merito era di Maitreta, qualcuno dirà che non è, che anche se la dovesse funzionare. Diranno che non è merito di Allegri, ma è merito di chi è che ha levato l'aiuto, di Lippi, tutto per non dire Conte, di Trapattoni, Riberto Herrera. Conte ha dei meriti, adesso al di là di tutto, sulla gestione di Allegri, perché comunque questa squadra l'ha inventata lui, l'ha forgiata lui. Però poi nel calcio sai che tante volte è più difficile continuare a vincere piuttosto che iniziare, quindi sono esattamente come Sacchi e Capello ai tempi del Milan, due straordinarie storie diverse, incomparabili. Non è difficile dire che va più bene a mamma e papà, è più bravo uno, più bravo l'altro. Uno ha costruito questa squadra e ha girato la ruota, e l'altro però insomma si sta mettendo il suo. Vi ricordate anche Capello siglò tutto con una sua intuizione, Desai a fare il quinto difensore davanti, proprio per lasciare il suo segno. Ci dobbiamo fermare, allora io intanto saluto e ringrazio Gianni De Biasi. Ciao Gianni. Grazie a voi. Prossima. Saluto anche Pierluigi Pardo, che allora invito a una riflessione profonda in attesa di venerdì, quando ci sarà il ritorno della schedina. Ma non mi chiedi neanche i tre, sono Phelps. Dai, Phelps. Phelps, Jordan e Maradona. Phelps, Jordan e Maradona, i tre, cioè, in del Pantheon sportivo. In ordine sparso, in ordine alfabetico. C'è chi ci chiede, dobbiamo spiegare i criteri per questo, nessuno. Ma quali criteri? Ognuno vota quello che vuole. Tutto qua. Ognuno vota quello che vuole. I criteri. Pier, quelli soggettivi sono Tony Adams, Henri Leconte e terzo tuo zio. Allora, c'è chi dice Pantani, c'è chi dice Alberto Tomba, che ha vinto tre ori olimpici. Senti, ma io ti mondo. Posso dire, ma quando mettono la technology, così, goal line technology in Spagna, oggi servirebbe, c'era servirebbe, un gol a favore del Barcellona dentro un braccio. Ma circa un metro, ma poca tra roba. Tra i temi della giornata. Sì, peccato che non stiamo qui a commentare la Liga, sarebbe stato meraviglioso questo gol di Alexis Vidal, credo. Sì. Roba tipo Montani. Appena dentro, roba tipo Montari, anche qualcosa più di Montari. Anche ciao Pier. Montari. Ciao Pier. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, ci fermiamo un paio di minuti, torniamo subito. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Tutti convocati. nessuna esultanza. Sul 3-0 sembrava avessero vinto veramente un orso alla Champions League, quindi si vede un'Inter diversa. Qual è stata la chiave di volta? La chiave comincia i giocatori, che per il bene della squadra bisogna mettere da parte ogni tanto, spesse volte, insomma, l'individualità, l'individualismo. Allena una squadra molto forte. Io sono rimasto impressionato dalla loro voglia di fare le cose nel modo giusto. Poi siamo l'Inter, la storia parla per una squadra che deve cercare di vincere. Sappiamo che la partita con Juventus sarà una partita molto importante per il nostro cammino in campionato, questo certo, ma altresì sappiamo che quella di martedì è determinante, perché è una partita dentro fuori, una competizione che, alla quale ci teniamo, un avversario difficile come la Lazio. Visto l'importanza, visto il livello dei nostri avversari domenica prossima, insomma, dopo poi le motivazioni e gli stimoli arriveranno da soli, adesso è bene che rimaniamo concentrati sulla Coppa Italia. Questo è il racconto del sabato del ribaltone, con la Lazio che perde in casa al 90° con il Chievo, poi mezza rissa in tribuna che mette a rischio il rinnovo di Lucas Biglia. Queste sono le notizie che vengono da Roma. Poi l'Inter che fa fuori il Pescara, ma questo era scontato, ma viaggia a velocità doppia. Saluto Riccardo Ferri. Ciao Riccardo. Ciao Ricky. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io ve l'ho promesso da una mezz'oretta, adesso ve lo dico. Siccome Pioli ha fissato a 80 punti la quota per arrivare alla Champions League, o almeno al terzo posto, che vale il preliminare, significa che all'Inter ne mancano 38, mancano 16 partite, vuol dire che l'Inter ha 10 punti a perdere. Secondo me va a Torino, può semplicemente perdere senza fasciarsi la testa, no, e da lì in poi si va avanti. No, semplicemente no, può perdere, però sarà una partita estremamente importante, perché è una specie di cartina tornasole del valore assoluto dell'Inter. Torno a ripeterlo, i meriti di Pioli sono lì sul tavolo. Non voglio parlare di calendari favorevoli, di partite semplici, eccetera. Però ha fatto un magnifico e semplice lavoro, basta leggere la formazione, ha scelto, ha battezzato un'ossatura, va con sì, quella... Gioca in 12-13, ha scelto i suoi uomini, ha semplificato il gioco e ha migliorato la condizione atletica della squadra. Ha dato un abbecedario alla squadra e da quel momento lì, semplificando le cose e disegnando una formazione logica, l'Inter ha mostrato le qualità che aveva anche prima. Riccardo, lettura semplice. Sì, sì, no, la lettura è perfetta. Poi io aggiungerei anche che si è calato molto bene nello spogliatoio, soprattutto nella testa di quei giocatori che erano messi un po' fuori ed erano messi in discussione, non solo personalmente ma anche le qualità di questi giocatori. Quindi recuperarli era il lavoro più difficile. E devo dire che, facendo alcuni nomi, da Condobia, Jo Mario, ad Ambrosio, ad Ansaldi, Brozovic, a Perisic, Brozovic, esatto, tutti giocatori che indubbiamente avevano qualità inespresse, insomma, ritrovare la consapevolezza nei propri mezzi è grazie a un lavoro quotidiano fatto anche dall'allenatore e dal suo staff, perché si dimentica che Pioli ha uno staff molto, molto qualificato, molto attento ai particolari. E quindi prima parlavate di Stefano, che aveva focalizzato 80 punti come raggiungimento della Champions. Sono gli stessi punti che ha ottenuto l'anno scorso la Roma, se non vado errato. Io direi che mi allaccerei al discorso fatto in precedenza, cioè non mi vado a fossilizzare sul calcolo attuale. La trasferta di Torino è una trasferta difficilissima. Se l'Inter dovesse uscire, l'importante è che ne esca lottando e cercando di essere competitiva su quel campo. Sono d'accordissimo. E se ne esce magari perdente, ha chiaramente della sua possibilità negli scontri diretti con Milan, Roma, Napoli. Tra l'altro Roma e Napoli, se non vado errato, sono in casa. Sì, tutti e tre. E anche il Milan. Quindi ha la possibilità di veramente di centrare una posizione importantissima, che potrebbe essere a ridosso della Juventus. Questo lascerebbe un po', tra virgolette, l'amaro in bocca di non essere partiti prima con un cambiamento molto più deciso su quanto riguardava l'aspetto tecnico, e questo a mio avviso avrebbe portato sicuramente dei vantaggi, certo, certo, magari un po' prima, e a questo punto sì, staremo, guarda, parlando, Riccardo, di altre cose. Che poi, perdonami, io ricordo un memorabile intervento di Riccardo Ferri nel periodo nero di questa stagione dell'Inter, andrebbero presi tutti andrebbero a calci, andrebbero attaccati e, tutti e al muro, invece no, guarda, bastava, molto più semplice. Ti ringrazio, non appesi al muro, ci voleva qualcuno, il mio era una forzatura, perché ci voleva qualcuno che all'interno dello spogliatoio potesse, come adesso, come detto prima, cercare di ribaltare una situazione che era solamente una situazione di ambiente malsano, di una condizione fisica non all'altezza di un campionato come il nostro, e di un comunicatore che, senza andare a prendere il capo ispettore De Boer, non era in grado né di comunicare alla squadra né, diciamo, di comunicare né di dare, né di dare una qualità fisica e tattica alla squadra. Io poi, tra l'altro, in un intervento a Tiki Taka, ero uno di quelli, è capitato poche volte nella mia vita, che ho detto in questo momento bisogna cambiare senza pensare a niente, cambiare, perché il cambiamento può portare solamente dei vantaggi, ed ero messo un po' all'angolo, perché tanti vostri colleghi invece volevano dare la possibilità a De Boer il tempo necessario per esprimere, non c'era più tempo, a cominciare da Pierluigi Pardo, che lo sostiene ancora adesso, ma ognuno ha le sue idee. Però io ti faccio un altro esempio: prendi Gagliardini, che è un eccellente giocatore, lo prelevi, il giorno dopo lo metti in squadra e funziona, non solo perché l'altro giorno parlavo con Gasperini, mi ha detto: mi devi promettere solo una cosa, tu vai lì e devi spaccare subito, da subito, non hai tempo in un club come l'Inter di avere delle pause, quindi mi devi promettere solo questo. Però quando prendi un giocatore nuovo, lo inserisci in una squadra che funziona, funziona Gagliardini, e funziona meglio anche con Dombia. Sì, no, ma è questo, che Gagliardini senz'altro ha contribuito a far funzionare la squadra, però è chiaro che quando è arrivato Gagliardini la squadra già aveva già ritrovato leggermente un equilibrio. Esatto. Diciamo che lui ha dato poi un suo contributo importante, tangibile, perché è un ragazzo che avrà sentito mille di questi suggerimenti, non solo da Gasperini, ma è un ragazzo che è arrivato con grande umiltà, facendo quello che sa fare senza strafare. Sta dando fisicità e qualità al centrocampo, compostezza, un atteggiamento propositivo, non una parola fuori posto, non atteggiamenti da prima donna. Un altro sarebbe arrivato e avrebbe fatto un po' la prima donna. Questo è un ragazzo che alla base ha sicuramente qualcosa di veramente solido. C'è chi ricorda che De Boer diceva che all'Inter non comanda nessuno, cosa che forse per qualche mese è stata. Io amo però ricordare che dopo due mesi De Boer stava ancora dicendo che era arrivato in corsa e non aveva avuto tempo di lavorare. Parole che io da Pioli non ho mai sentito. E qui c'è anche l'approccio diverso, secondo me, che fa la differenza. Anche perché ricordo tutti quelli che stanno ancora scrivendo messaggi: l'Inter non ha vinto contro nessuno, è andata a Napoli, ha perso. Guardate che Pioli è arrivato e si è trovato il derby, la Fiorentina e il Napoli, in una situazione che era precomatosa, anche oltre. No, ma credo che De Boer abbia detto una cosa un po' fuori posto, perché era lui che doveva dettare le regole e comandare, e dare comunque dei comandamenti da seguire. Non ha dato nessun tipo di indicazione. Adesso a me dispiace parlare di lui, perché adesso lui è lontano, non ascolta, non ha possibilità di replica. Però, voglio dire, la squadra si sapeva benissimo che lavorava male e si esprimeva male, e lui non riusciva poi a entrare all'interno del gruppo e cercare di dare una svolta. Era già delegittimato da tempo. Quando io a Tiki Taka ho detto quella cosa, l'ho detta a ragion veduta, perché si era già intravisto da quello che si vedeva, da quello che si sentiva, che era un allenatore ormai fuori gioco. Quindi era il caso di cambiare. La società, secondo me, ha aspettato un pochino troppo. Bravo. Per cercare di trovare un cambiamento. Sì, certo, almeno due o tre giornate in più. Almeno due o tre settimane. Grazie Riccardo. Ciao Ricky. Grazie a voi, buon ciao, lavoro. Ciao. Grazie a Riccardo Ferri. Sì, questo è. Sì, Riccardo. Ha parlato bene Riccardo Ferri. Dice che io delegittimato. Sì, ha detto che bisognava mandarti via prima. Io ricordo suo autogol in derby. Ma cosa c'entra? Sì, ha fatto 1900... un autogol in un derby. 88 credo, l'anno dello scudetto del Milan. Adesso è passato quel che è. Sì. Ma di cosa stiamo parlando? Adesso io riconosco nella mia squadra filosofia passo a passo, e abbiamo fatto 7 Sì. Abbiamo ganato loro. Sette vittorie. Sì. E miglioriamo come Peccato che adesso c'è Pioli. Sì. Miglioriamo sempre. Ah. Io ho fiducia in miei giocatori. Sì, sei allenato. Quindi i tifosi dell'Inter hanno fiducia nell'allenatore, quello ferro, nuovo. Io non sono non sono delegittimato. No, semplicemente a casa sua. Io voglio sempre vincere. Aspetta, che c'è Danilo prima del traffico. Danilo, pronto? Eccoci qua. Sì, prego, Danilo. Danilo. Vabbè, dove vogliamo mettere Edwin Moses, 122 vittorie consecutive, chi? Ostacoli? Chi, perdonami? Edwin Moses. Ah, Edwin Moses. Accidenti. Sì. Possiamo andare avanti. Dove lo vuoi mettere? Dove lo vuoi mettere? Nel Pantheon, sì. Sul podio. Nel Pantheon, certo. Insieme poi, a chi? Insieme a chi? Beh, Jordan sicuramente e Cassius Clay. O Muhammad Ali, poi insomma un podio molto classico. Ha ragione l'ascoltatore. Edwin Moses è stato uno dei grandi della uno dei grandi della storia dello sport. Anche Frank De Boer. Vabbè, c'è il traffico. Io saluto Carlo Genta. Ciao, ragazzi, che ritrovate domani dopo il GR delle 14. E torniamo subito dopo. Tutti convocati. Agli invidiosi! Tutti convocati. I worked very hard to be where I am today. I fought a lot during the both weeks today. I think was a great match. Probably Roger deserved a little bit more than me, so I'm just gonna keep trying. I let Roger get the trophy and see you next year. Ladies and gentlemen, the 2017 champion of the Australian Open, Roger Federer. Thank you, guys. I'm out of words, and Rafa said so many great things, but of course I'd like to also congratulate Rafa on an amazing comeback. I don't think either one of us believed that we're going to be in the finals of Australia when we saw each other. And here we stand in the finals. You know, I'm happy for you. I would have been happy to lose too, to be honest. The comeback was perfect as it was. So tennis is a tough sport. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept a draw tonight and share it with Rafa, really. Però magari possiamo metterlo, il pareggio del tennis. Chi potevamo convocare se non il più rogeriano dei rogeriani, Stefano Melocaro? Ciao. Ma insomma, sempre con una certa distanza e con un certo atteggiamento British, però effettivamente. Buonasera, certo, non, diciamo che oggi non è una bruttissima giornata per gli amanti del tennis e di Federer in particolare, sì. Tra l'altro volevo dirti una cosa, visto che l'hai fatta sentire nella sigla, nella copertina, mi pare che il più grande merito di Roger Federer oggi non sia tanto il 18° slam, quanto il fatto di avere finalmente nobilitato la frase, sai che nel calcio si dice sempre non firmerei per un pareggio, no? Ecco, lui ha detto all'inizio del torneo avrei firmato per questa partita e avrei firmato per un pareggio alla vigilia, per cui qui siamo a posto, cioè, finalmente si può dire. Ma infatti il paradosso di questa domenica mattina che ha tenuto inchiodati tutti a questa finale da Melbourne, ieri sera leggevo addirittura in America il Wall Street Journal che suggeriva che ora alzarsi per poterla vedere, e il vero paradosso è che Nadal resta avanti nei precedenti, in generale nelle vittorie, nelle finali del Grande Slam, eppure io ho l'impressione che poi un posticino in primo piano nella storia di questa grandissima rivalità ce l'avrà proprio questa partita, le lacrime di Federer. Insomma, ce l'avrà l'ultimo episodio di questa saga, ammesso che sia l'ultimo. Sì, hai ragione. Allora, questa cosa qui l'abbiamo pensato tutti, cioè sappiamo tutti che ci auguriamo che ce ne siano altre, però francamente immaginare oggi che ci possa essere un'altra finale di Slam a questi livelli così importanti tra Federer e Nadal, non perché non ne abbiano la possibilità, io credo che tutti e due abbiano ancora la possibilità di giocare finali di Slam, ma andarci tutti e due contemporaneamente francamente mi pare veramente difficile. E allora alla vigilia tutti abbiamo immaginato che questo fosse lo spareggio finale. Cioè sappiamo che Nadal ha battuto Federer molte più volte di quanto non sia accaduto al contrario, è quello che gli ha dato i dolori più grandi, è quello che lo ha reso ancora più grande, perché Federer ha vinto 18 slam nell'epoca in cui Nadal lo batteva sempre. Se Federer ne avesse vinti 50 di slam e Nadal non fosse mai esistito, avremmo detto vabbè, ma tanto non aveva nessuno tra gli avversari. Certo. Invece ha avuto Nadal, oltre a Djokovic e Murray. Perciò questa era un po' la finale delle finali, cioè questo era lo spareggio definitivo, era la partita definitiva. L'ha vinta Federer, grandissimo, immenso onore a Rafa Nadal, che resta comunque quello che gli ha dato più fastidio di tutti nella storia. Un po' come sul campo di calcetto, quando si stanno per spegnere le luci, chi segna vince. Sì, bravo. Qualunque bravo sia il risultato da cui si è partito. Federer è il più grande di tutti, e qui restiamo nell'ambito del tennis, è due ore che chiediamo agli amici invece il loro pantheon degli sportivi di sempre. Cito perché ci sta scrivendo 500 messaggi, uno che parla di Mennea e Carl Lewis, quindi mettiamo anche Mennea e Carl Lewis. Prego, Stefano. Sì, ma non lo so, non è chiaro che ognuno ha i suoi preferiti, non so se tu me lo stai chiedendo per tutto il mondo dello sport o solo ma no, per il tennis. Fermiamoci al tennis. Al tennis, sì, se, allora, tanto è inutile che ti risponda tommasianamente, no? Rino Tommasi diceva, non so dirti chi sia il più grande di tutti i tempi, ti dico che sta sicuramente nel podio dei migliori cinque, no. Cioè io se mi devo giocare una fra preferisco esagerare, ti dico sì, secondo me è il più grande di tutti i tempi, intanto perché il più forte è sempre l'ultimo arrivato, per cui secondo me Federer è più forte di Agassi, che era più forte di Becker, che era più forte di Borg, che era più forte di Lever, capito? Cioè secondo me l'ultimo arrivato è sempre più forte, al netto poi delle racchette, delle corde, dei materiali che sono cambiati. E di sicuro è quello che ha giocato a tennis meglio che gioca a tennis meglio di tutti, e mai nessuno ha giocato così bene come lui. Poi questa è un po' una provocazione, perché poi stare a dire chi sia il migliore dell'universo è molto difficile. Molto difficile. Meravigliosa anche la saga delle sorelle Williams, Serena che magari diventerà anche la tennista con più vittorie negli slam, gliene manca uno per raggiungere Margaret Court. Ecco, Serena che invece paga probabilmente, se vogliamo fare statistiche all time, paga il fatto di aver avuto raramente una grandissima avversaria. Forse perché le ha ammazzate tutte lei prima che diventassero grandi, perché ne ha fatte smettere tante. Le ha uccise in culla. A partire da Martina Hingis, che smise proprio quando, con l'avvento delle due sorelle Williams. Ma sai, Serena non è una notizia, no? Cioè Serena è Serena, lo sappiamo ancora oggi. È la più forte di tutte. La notizia lì è Venus, nel senso che comunque ha 36, quasi 37 anni, che arrivi ancora in finale Venus Williams e che giochi contro la sorella non depone a favore del movimento del tennis femminile. Cioè insomma, noi abbiamo avuto anni in cui c'erano contemporaneamente Graf, Sabatini, Seles, compagnia, Conchita Martinez, Arancia Sanchez, Chris Evert ancora giocava, Martina Navratilova giocava. Insomma, oggi francamente ti guardi dietro e vedi che dopo le sorelle Williams ancora siamo fermi a Venus e Serena, perché comunque le giovani non sono ancora abbastanza forti, quelle che dovrebbero essere già forti, visto la Kerber, che ancora si liquefanno ogni tanto in campo, per cui questa non è una buona notizia. Mentre Federer Nadal è un'ottima notizia per il tennis maschile, secondo me, il fatto che le due sorellone giochino ancora la finale contro non è una gran notizia per il tennis femminile. Grazie Stefano. Grazie a te. A Stefano Meloccaro. Abbiamo meno di due minuti, vediamo se riusciamo a farci stare tutti. Nicola dalla provincia di Pisa. Nicola. Sì, buonasera. Io volevo intervenire per quanto riguarda i grandi campioni dello sport di tutti i tempi. Sì. Per quanto riguarda il calcio, noi siamo abituati sempre a basarsi su Ronaldo, Maradona, Pelé. Io volevo dire la mia. Penso che il più grande calciatore di tutti i tempi non sia uno di loro tre. E chi è? Dai. Ma sia Garrincha. Garrincha. Perché Garrincha rappresentava il calcio, quello istintivo, quello delle basi, il dribbling, e ha fatto delle cose che io non ho visto fare neanche sì, a Pelé. Straordinario Nicola, poi in quella squadra lì c'era però un certo Pelé che era la copertina di tutto. Stefano dalla provincia di Treviso, Stefano. Sì, buonasera. Vai. Allora, numero uno Jesse Owens, Olimpiadi di Berlino, 4 medaglie d'oro davanti al Führer. Vai, numero due. Numero due Cassius Clay, insomma, Ali Boubaye. Mm? E numero tre Abebe Bikila. Abebe Bikila, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma a piedi nudi nella maratona e replica a Tokyo nel 64 sempre a piedi nudi nella maratona. Straordinario anche lui. Grazie Stefano. C'è anche chi dice Giacomo Agostini, lo lasciamo fuori. No, mettiamo anche Giacomo Agostini. Aggiorniamo a domani la seduta. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggi e Andrea Roccabella, che si sono alternati in regia, Andro Mercu, con le mille voci. Yeah. Tutti convocati weekend, torna domenica alle 17. Domani invece, dopo il GR delle 14, Carlo Genta più Luigi Pardo. Ciao. I hope I didn't forget anything, but just thanks again for everything to everybody. And of course I hope to see you next year. If not, you know, this was a wonderful run here and I can't be more happy to have won tonight. Thank you very much, guys.